XXXBeats.com. Le riviste, le modelle, il giornale, tutta roba che non vale senza te. Le modelle, le riviste, tutta roba che abbiamo già visto, avete già viste, e che non vale senza te. Senza te non sarei niente, sarai la mia Pamela come per Jim. Io sono il più grande in questa cosa qui, fristo come se disegnassi su un foglio. Ricamo le tue lettere, amore, voglio te per sempre. E quindi ti stringo la mano in un rito profano che ci unirà per sempre, accompagnandoti per le vie del mondo distante da quello che è il dolore. Io sono come il Cristo Redentore della tua anima. Quello che tu cercavi lo trovi in me, baby, lo sai. Sono pronto a darti quello che vuoi, onorarti e sposarti, andare dove andrai e seguirti, seguire i tuoi passi come orme nella sabbia che passando cancellate ne lasciano le tracce. Siamo come le parole, le parolacce, resta un cielo che non ci piace. Siamo un dito puntato verso l'infinito, verso un Dio che ci ha rinnegato e ci ha spedito. Siamo dei Gesù dissacrati, siamo dei profani della stessa chiesa. Siamo l'amore quando accende e il bisogno che poi prende. Di tutto poi mi stende e dico: vaffanculo al destino che è, gli porgo la mia corda e dico: bam bam, sei sparito, il mio destino lo riscrivo. Il mio destino lo riscrivo, il mio destino lo riscrivo, il mio destino lo riscrivo, lo riscrivo, lo riscrivo. E poi ci sei te, e beh, come una storia che non c'è, ma che adesso verrà in questa nuova terra qua, nel mio cuore profondo dolore. Per tutte le volte che non ci sarai, baby, ci saranno le mie canzoni, i miei disegni, i miei guai a consolarti. Io voglio essere distanti da tutto questo e trovare il posto perfetto per noi due, senza alcun difetto, in cui ci saremo solo io e te, solo io e te, solo io e te. Sì, solo io e te saremo e vivremo una vita eterna in questa vita che è tutto sotterra, e che gli orchi e tutti quanti questi stronzi saranno distanti. Il male del mondo non potrà toccarci, perché noi andremo lontano, lontano, provandoci, provandoci, provarci. Provarci è la parola chiave, per questo sto provando un po' di amore per te. Se il sentimento che da un po' ci sto cercando non c'è, sei la cosa più bella che c'è. Sei l'estremo mia mano che è tesa al cuore, sente un palpito, un dolore. Sei quando io scrivo una splendida canzone. Sei come l'amore che dentro ogni mia frase tuona, e poi la fase di un cuore innamorato tace. Sarà pericoloso per me amarti, ma ti amerò lo stesso contro ogni dolore, ogni triod, ogni inganno. Saremo un affanno eterno in questo amore. Sei come il dolore che provo tutte le ore quando non ci sei e non ci sarai, perché non ci saremo, o forse saremo l'eterno cammino insieme. Decidiamolo e quindi facciamolo, facciamolo questa notte, mai più, prima che il dolore ci prenda e ci trasporti in una direzione che non sappiamo. Saremo solo io e te, io e te, io e te, nessuno potrà trovarci, potrà prenderci, io e te come mio e te mia come me. E saremo di due, una dimensione sola, un orgasmo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.